I podcast di Rivista Militare, letti da Giulia Marrone. L'8 marzo e le donne, le vere origini della giornata internazionale, di Anna Maria Esastia. Nella seconda conferenza internazionale delle donne socialiste, che si tenne a Copenaghen nel 1910, Clara Zetkin propose che si stabilisse in ogni paese una data per una manifestazione annuale dedicata alla questione femminile, includendo la rivendicazione del diritto di voto che era, in quei decenni, una battaglia combattuta in molti paesi. La giornata, da svolgersi tra fine febbraio e inizio marzo, avrebbe dovuto avere l'appoggio delle organizzazioni politiche e sindacali maschili, che però reagirono con scarso entusiasmo. Negli anni successivi si svolsero manifestazioni sparse in Germania, Austria, Olanda, Svizzera, Stati Uniti, Russia, ma il primo vero 8 marzo fu quello tedesco del 1914, in apertura della settimana dedicata dai socialisti alla propaganda e al reclutamento. Nel manifesto preparato per l'evento si leggeva «Avanti con il diritto di voto alle donne». 3 anni dopo, in piena guerra mondiale, l'8 marzo 1917, ma 23 febbraio secondo il calendario gregoriano ancora in uso in Russia, le operaie tessili di Torshilovo e le dipendenti del deposito di tram dell'isola Vasilievskij sfilarono sulla Prospettiva Nevskij a Pietrogrado. Chiedevano pane per le famiglie dei soldati, pace per i loro figli e diritti per se stesse. A loro si unirono gli operai di una fabbrica e gruppi di massaie esasperate da ore di code per il pane. Tutti insieme sfidarono la polizia e i soldati. Fu l'inizio della rivoluzione e la fine della monarchia dei Romanov. In Italia il rapporto tra i tanti movimenti femministi e le donne socialiste appariva molto complesso, anche perché il partito non condivideva la battaglia per il voto, che considerava, a torto, una questione borghese. Di conseguenza non ritenne di organizzare eventi legati al suffragio femminile. Dopo la scissione di Livorno del gennaio 1921 e la nascita del Partito Comunista, fu dunque agevole per le donne che entrarono a far parte del nuovo partito organizzare la Giornata Internazionale della Donna, anche in funzione polemica con il PSI. La giornata dell'8 marzo 1921 fu celebrata per la prima volta anche in Italia, dandole una forte connotazione politica e simbolica, per marcare la discontinuità con il Partito Socialista da cui era gemmato il PCDI. Conseguenza pratica di questa situazione fu la cancellazione del precedente movimento politico delle donne in Italia, per accreditare la novità dell'attivismo femminile comunista. Patrizia Gabrielli, Fenicotteri in volo, donne comuniste nel ventennio fascista, 1999. Nello stesso anno, la Conferenza internazionale delle donne comuniste proclamava quella data Giornata internazionale dell'operaia, in ricordo della manifestazione delle operaie di Pietroburgo, circoscrivendola alla sola classe operaia e al movimento comunista. L'avvento del fascismo segnò la sospensione di una politica attenta alle donne dopo 2 sole celebrazioni dell'8 marzo, quella del 1921 e quella del 1922. Dobbiamo aspettare il 1945 perché in Italia si torni a parlare di 8 marzo, giornata internazionale delle donne. Lo fanno le attiviste dell'UDI, Unione Donne Italiane, che in quel momento storico raccolgono cattoliche e laiche, socialiste, comuniste, repubblicane. Si festeggia nelle fabbriche, negli uffici, nelle scuole, con riunioni, comizi e feste popolari. A Londra, in quella stessa data, sono riunite donne di 20 nazioni che approvano una Carta della Donna, da far pervenire alla neonata Organizzazione delle Nazioni Unite. In quel 1945, le donne italiane raggiunsero uno degli obiettivi inseguiti da decenni, il diritto di voto politico e amministrativo. Decreto legislativo numero 23 del 1 febbraio 1945. Era un passo decisivo verso la cittadinanza politica, anche se resta la sensazione di una scelta fatta nell'interesse dei partiti di massa più che delle donne, trascurando il lungo dibattito sul suffragio femminile. L'8 marzo 1946 ebbe l'onore dell'attenzione di tutta la stampa quotidiana, anche perché si era alla vigilia delle prime elezioni amministrative dopo la fine della dittatura e della guerra. Ed era la prima volta che le donne sarebbero andate a votare. Fu allora che si pensò di legare alla festa la mimosa, fiore di stagione, economico e facile da trovare. L'anno dopo, l'8 marzo, venne celebrato in Parlamento dove sedevano le 21 donne elette all'Assemblea Costituente e il presidente del Consiglio, Alcide De Gasperi, raccomandò che tutte le impiegate dei ministeri avessero la giornata libera. La data dell'8 marzo era ormai considerata una giornata di lotta, ma anche di festa e un momento di autogratificazione. La data serviva anche a difendere il diritto delle donne al lavoro e al riconoscimento del ruolo di capofamiglia per quante erano fonte dell'unico reddito familiare. Nell'Italia del secondo dopoguerra, la narrazione delle origini dell'8 marzo si trasformò completamente fino a fare dimenticare la nascita storica. Se in passato l'8 marzo era stato incardinato nelle politiche dell'Internazionale socialista, legandosi poi all'inizio della Rivoluzione russa, una tradizione del genere diventava insostenibile nel clima di guerra fredda degli anni 50. Proprio mentre la data assumeva un'importanza sempre maggiore, veniva cancellata la sua nascita storica, sostituita da costruzioni mitiche. In Italia si è affermata la presunta commemorazione di operaie morte in un incendio, non meglio precisato, forse a Chicago o New York o Boston. Si sostenne che operaie in sciopero l'8 marzo 1908 sarebbero morte in una filanda o forse in un calzaturificio. Un'altra leggenda legherebbe l'8 marzo a una manifestazione spontanea di operaie tessili a New York nel 1857, repressa brutalmente dalla polizia. Questa ricostruzione ebbe particolare fortuna in Francia, dove era forte l'esigenza di separare la giornata internazionale delle donne dall'eredità storica, attribuendo le origini molto più antiche e spontanee, slegate da ogni appartenenza partitica. Con tutta evidenza, l'invenzione di una tradizione riuscì nell'intento di spostare l'attenzione dalla rivoluzione russa al capitalismo americano, crudele ma lontano nel tempo e nelle sensibilità degli europei. Queste presunte origini mitiche servirono a descrivere la ricorrenza in una tradizione operaia non sovietica. Nel corso dei decenni cambiò l'approccio alla Giornata Internazionale delle Donne. Cambiarono anche le parole d'ordine e lo spirito con il quale questa giornata fu vissuta. Negli anni 50 la parola d'ordine dell'8 marzo fu la pace. Molto sentita in piena guerra fredda e blocchi contrapposti, un tema facilmente condivisibile anche se proposto da sinistra, che il governo centrista cercò di contrastare impedendo la distribuzione dei mazzetti di mimosa e disperdendo le donne che l'8 marzo si riunivano per raccogliere firme per la pace. Negli anni successivi si passò a inaugurare in quella giornata campagne nazionali, come quella per gli asili nido, migliori condizioni di lavoro, retribuzione più equilibrata tra uomini e donne a parità di lavoro. Gli anni 70 furono quelli del femminismo vissuto in mille declinazioni diverse. Nel 1972, per la prima volta, le femministe celebrarono l'8 marzo con una grande manifestazione a Roma, a Campo dei Fiori, che si concluse con uno scontro con la polizia e un'enorme visibilità mediatica. Ogni anno cambiavano gli slogan legati al momento politico. Nel 1974 in primo piano c'era il referendum per l'abolizione della legge sul divorzio. Nel 1976 era in pieno svolgimento il dibattito sulla depenalizzazione dell'interruzione volontaria della gravidanza. Nel 1975, durante l'anno internazionale delle donne, le Nazioni Unite celebrarono per la prima volta l'8 marzo. Due anni dopo, nel 1977, l'Assemblea Generale dell'ONU adottò la risoluzione 32-142, che invitava gli Stati membri a indire una giornata delle Nazioni Unite dei diritti delle donne e della pace internazionale, per ricordare il fatto che la sicurezza della pace e il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali hanno bisogno della partecipazione attiva, dell'uguaglianza e dello sviluppo delle donne. La data scelta da molte nazioni, tra cui l'Italia, fu l'8 marzo. Da quel momento anche il femminicismo cattolico legato alla DC e al CIF, Centro Italiano Femminile, cominciò a celebrare l'8 marzo insieme a molte altre associazioni cattoliche. Infine, negli anni Ottanta, le donne socialiste cominciarono a rivendicare l'origine socialista della giornata, denunciando la propaganda e la storiografia comunista che ne avevano fatto la giornata di lotta e di lutto. Una sorta di primo maggio delle donne, occasione di manifestazioni oppositive, ricordando l'ingegnosa capacità di impostura terzinternazionalista che aveva negli anni 50 diffusa una del tutto inventata genesi dell'8 marzo legata a un probabilmente mai verificatosi episodio. Il fatto è che l'8 marzo non nacque né come giorno di lotte e di lutto né come festa. Elena Marinucci, l'8 marzo delle socialiste, Avanti, 8 marzo 1987. Eppure, a distanza di tanto tempo, la vulgata resta quella inventata, anche se nel 1987 Tilde Capomazza e Marisa Ombra pubblicarono un libro sulla storia dell'8 marzo e un nuovo lavoro è uscito nel 2010 a firma di Alessandra Gissi. Anna Maria Isastia ha insegnato storia del Risorgimento e storia contemporanea alla Sapienza Università di Roma. È stata presidente nazionale del Soroptimist International d'Italia e attualmente è presidente della Fondazione Soroptimist Club di Roma. È condirettrice della collana La memoria e le fonti, identità e socialità, segretaria nazionale della Società Italiana di Storia Militare, SISM, consigliera nazionale dell'ANRP, Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, dai campi di concentramento e dalla guerra di liberazione. Scrittrice e conferenziera, ha oltre 250 pubblicazioni scientifiche, tra cui 16 monografie e 18 curatele. Il volontariato militare nel Risorgimento, la partecipazione alla guerra del 1859, USSME 1990. Soldati e cittadini, 100 anni di forze armate in Italia, SMD 2000. L'unità delle donne, il loro contributo nel Risorgimento 2011. Donne in magistratura, l'Associazione Donne Magistrato Italiane, 2013. Una rete di donne nel mondo, Soroptimist International, un secolo di storia, 1921-2021. 2021. I podcast di Rivista Militare, letti da Giulia Marrone.